Buon pomeriggio a tutti e a tutti, la vostra linea è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. Oggi abbiamo Sofia, ospite in radio. Noi vi parleremo del reggae sunsplash, di quello che si tiene in Jamaica, star nelle West Indies. Ascolteremo registrazioni tratte dai sunsplash di varie annate buone come quelle dei Vini. Probabilmente un esperimento che ripeteremo nel corso dei mesi, in quanto c'è tanto materiale da snocciolare. E infatti sì, sono tantissime le edizioni di questo festival storico, che poi è nato appunto in Giamaica, a Montego Bay, la prima edizione, più precisamente al Jarrett Park di Montego Bay, e la prima edizione si è svolta nel giugno del 1978, un festival iniziato al tramonto e poi proseguito fino all'alba per ben 7 giorni consecutivi. E allora, esattamente l'anno dopo, c'era Rob Ernesta Marley in quel del Sunsplash. Ci sentiamo un paio di brani, cominciamo da Rastaman Live Up. Okay. E allora continuiamo con Marley al Rodon Sunsplash, questo è Ambush in the Night. Come detto, siamo alla seconda edizione del Reggae Sunsplash, che si è tenuta ancora al Jarrett Park di Montego Bay tra il 3 e il 7 luglio 1979. Ma come detto, il festival nasce un anno prima per opera di quattro giamaicani: Tony Johnson, Don Green, Ronnie Burke e John Welking. Questi erano i quattro fondatori che appunto hanno creato una società denominata Synergy Production ed era incaricata di promuovere e produrre il festival, appunto, Reggae Sunsplash. E infatti c'è da dire che il festival si svolgeva nella stagione estiva, che poi è una stagione, in realtà, a bassa stagione in Giamaica, e quindi anche gli alberghi molti rimanevano chiusi, e invece grazie a questo festival cominciarono a venire turisti da, anche da tutto il mondo. Per già il primo festival, quello del 1978, è stato classificato come il più grande festival di musica reggae della storia. Che poi Sunsplash vuol dire il sole che si butta nel mare, infatti andava avanti fino a mattina, e questa era una caratteristica del festival. Iniziava al tramonto e finiva all'alba. Tu l'hai visto, mi sa, eh? Sì, io l'ho visto. Thank you. erano gli anni d'oro del reggae. Un altro degli artisti che abbiamo scelto è Barney Spear, live al Reggae Sunsplash. Ci sentiamo uno spezzone del suo concerto. My way is long, so long, but the road is foggy, foggy. My head never swell, my heart never leap, I never have no faith, I'm waiting. My head never swell, my heart never leap, I never have no faith, I'm waiting, even though the road is foggy. So foggy, foggy, yeah. Can hardly see. E anche qui siamo nel 1979, la seconda edizione del Reggae Sunsplash. Questa è Foggy Road ed erano gli anni in cui, dopo i primi due album per la Studio One, Barney Spear passò per l'Island. Oh, never mind, my brother, I will go on. The road is so foggy, the road is so foggy, foggy. So foggy, foggy. Questa invece è Man in the Hill. If we my brother, go to the river to carry the wash up the dishes. She even goes to the shop and bring in the grocery. When my smaller brother run around and pick up the bramble to keep the fire blazing, to keep mama fire blazing fire. Blaze the fire. My mother, I work my mother. station. Come in with food, daddy. Come now, daddy. Come in. Come now, daddy. Come in with food. Come in, come in. So, and if we should, and if we should live up in the heat, in the heat. It's the sound of the sea. Sound of the sea. Made for people. Siamo ancora con Barney Spear live a Montego Bay 1979 Sun Splash. Questa è The Sun. No, no, no time to you, time to you, if my heart goes to you. Yes, if my heart, Allora, questo era Barney Spear, invece passiamo a Ika Mouse, Ghetto Living. All right, let's invite on for a quick spot in Reggae Sunsplash before we go and splash it down on the beach today. Let's hear it for Ika Mouse. Ecco, invece siamo nell'edizione del 1982 che si è tenuta ancora a Montego Bay tra il 3 e il 7 agosto. This when someone sing, them say la la, wah wah, yeah yeah. You come on and say that. Just bang bang, bidi bang, gang gang gang, yen. Yeah. So that one I know, that one I call, don't get to where I'm going. I want to me I do, you know, kawa. I know people want where you come out, you know, see it. Bang bang, bang decken, bang dodi bang, bang don den, ben am a coin, ten. Bang bang bidi bing ding bena bing ding bena ma boy bena mini bing bena mini bing bena men. Hey, down in the ghetto is where I grow. Pain and tribulation all I know. Mommy and daddy all that we I live for. One make we a feel suffer so. Hey, sister me come and I blow down me door. Rain a pour through me one window. Shoes tear up, me toe dust a show. Me na na oh, ayy, me na na oh, ayy, ayy, me na na oh. Me na na oh, I know me na na oh, I know me na na oh. Ayy, ayy, me na na oh, ayy, ayy, me na na oh. I know me na na oh, na know me na na oh. Ayy, feel me mama tell me don't rob no store. Else police beat you, make you back sore. She tell her daughter, don't turn her over. Just take that stuff for reason, so oh. Hey, five on the bed, four on the floor. We me a go do me no no, oh, oh, oh. Mama does a ball, papa does a ball. The greatest crime is to be born. Hey, hey, say, hey, me na no. But I know me not no old. I know not know me not no old. Ding ding, I know not know me not no old. I know I'm in the old. Ding ding ding ding, and I go going. Long ding ding ding. Stop it, stop it, stop it. Different lyrics. Bing ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Me mama, that means my mother. Hey, sometime I man singing a patois. Hey, hey, hear it as foreigners. Hey, let me teach you some patois. Hey, some Jamaica patois. Hey, when I say me mama, it means my mother. When I say my papa, it means my father. Hey, she grow me without a papa. Hey, Jano, oh, police kill my brother. Him name Bobby Bowa. He used to live at Olaba. Hey, Jano, oh, he must charge him murder. Don't shoot, don't him shock down. Ben a men den den. Hey, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga. Me live in a area. Me live in a area. Hey, Jano, oh, I'm no residential. I pay old cat park. Some mark removal. Hey, some of them mark for iron. Here comes a con man in a continental. Him brainwash every youth. Them gone in a rental. Some live in Tonova. Some in a hospital. Me you say them just. E qui appunto, come detto, siamo nel 1982, ma già dall'edizione dell'anno precedente tutti i festival del Reggae Sound Splash sono stati filmati e registrati con diversi video e album pubblicati. E appunto il primo fu il Reggae Sound Splash del 1981, quello dedicato a Bob Marley e pubblicato dalla Elektra Records. Dal 1987 in poi invece il festival ha anche incluso un evento di Sound Clash con i finalisti provenienti da una competizione appunto di sound system nazionali, e in più anche il festival è stato ampliato per includere una Oldies Night con le star della musica giamaicana delle epoche passate. Hey, me no see it. Hey, hey, me this I only ask who do it. How do it, how old we it. Some say them not no old. Some say me be so old. When did the men go on? Ben, den, den, den, den, den, den, Monday. When they buy Monday, me not so coin. When did the men go coin? When they buy me, I'm a coin. Bella len. Ben, dun, den, a mini, min, a mong, den, ben, den, ben. Ben, they go on. All over the world. Good night. Me say that only for assassinator. Kill man, woman and pygmy. Say them a traitor. Hey, some of them a fi run left the area. Run left them furniture. Run left them furniture. But me and me brethren hiding a one theater. Hey, hey, but I come back. Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Ging, ging, ging, ging, ah, that I mean it. Stessa edizione, loro sono i Mighty Diamonds. Pass the Cucci. Feel it on the water, you got to know her, you will walk on don't know what was going on. But the spirit of Jah, you know he leads me on. It was a ring of chants and a session was there in swing. I could feel the thrill as I see and heard him sing. Pass the coachie on the left hand side. Pass the coachie on the left hand side. It a go good. It a go done. Jano. Pass the coachie on the left hand side. Pass the coachie on the left hand side. It a go good. Ma erano poi tante le azioni per promuovere sia il festival ma anche la Giamaica come meta turistica e di viaggio. E allora i quattro organizzatori nel 1983 per promuovere in Europa la Giamaica invitarono la band tedesca Supermax per l'apertura del festival annuale a Montego Bay e intelligentemente poi invitarono anche alcuni giornalisti tedeschi affinché riferissero non solo del festival ma anche sul lato più turistico e soleggiato della Giamaica. Afternoon, you could feel it falling toward the Montego. So I left my gates and went out for a walk. As I passed the dreadlocks camp, I heard them sing. Pass the coach up on the left hand side. Pass the coach up on the left. It's a go good. It's a go done. Jano. Pass the coach up on the left hand side. Pass the coach up on the left hand side. It's a go good, good, good, good. It's a go done. So I stopped to find out what was going on. What did you find when you made your stop? For the spirit of Jah, you know he leads me on. It was a ring of chants and a session was there in swing. As I could feel the thrill that I see and heard them sing. I'm the same when you heard them sing. Pass the coach up on the left hand side. Pass the coach up on the left hand side. It's a go, go, go, go. Ed è il momento di Gregory Isaac, The Cool Ruler. Still low now. Go we rain, go on the lead. Ancora Gregory Isaac col suo cavallo di battaglia Night Nurse. Ah, tell her try your best just to make it quick. Come back into the sink. Something she can do. This heart is broken too. Come on. Tell her it's a case of emergency. È il primo pezzo di Gregory Isaac, risaliva all'edizione del 1981 che si è tenuta ancora a Montego Bay tra il 4 e l'8 agosto. E invece questa Night Nurse è presa dal festival del 1983 che si è tenuto di nuovo nel mese di giugno, tra il 28 giugno e il 2 luglio. I need a tender from my neck around the clock. But there's no restriction for me. Un festival che negli anni si è anche ampliato diventando internazionale, e infatti nel 1984 il festival Reggae Sunsplash è andato al Crystal Palace di Londra per un unico giorno in cui la fecero da padrone gli Scatolites. E invece nel 1985 venne lanciato il Reggae Sunsplash World Tour negli Stati Uniti e in Giappone, e poi negli anni successivi la tournée ha percorso il Nord America, l'Europa, il Sud America e l'Estremo Oriente, insomma diventando un festival itinerante e internazionale. I need attendance on my nerves around the clock. But there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Proseguiamo con l'edizione del 1982, loro sono Toots and the Maytals e questa è la loro Get Up Stand Up. can you see my love? Allora, è sempre 1982, loro sono sempre Toots and the Maytals, questo è Pressure Drop. Sunsplash che diventa sempre più internazionale e famoso con, appunto, abbiamo detto, dal 1978 al 1996 è andato in scena ininterrottamente. Ma nel 1995 il presidente del consiglio di promozione turistica della Giamaica aveva offerto assistenza finanziaria in cambio di partecipazione nella Synergy Production, appunto la società fondatrice del Reggae Sunsplash. Ma questa offerta fu rifiutata e così organizzarono il Reggae Sunsplash International in Giamaica, ma ovviamente senza gli organizzatori fondatori del Reggae Sunsplash, e questa edizione è stato un disastro finanziario. Disastro finanziario che ha portato nel 1997 che ha visto la non partecipazione, appunto, del Reggae Sunsplash nel 1997, festival che è stato rinviato poi al 1998 per la concomitanza delle celebrazioni della nascita di Bob Marley. Ma anche in quel caso fu un flop e le perdite finanziarie aumentarono, e così il Reggae Sunsplash non si fece più per svariati anni, fino al 2006, quando il festival è stato rimesso in vita dalla famiglia Johnson, ma anche qui non ha avuto successo, e così quella fu l'ultima edizione Reggae Sunsplash del 2006. E allora ci sentiamo Dennis Brown. Are you ready to stand up and fight the right revolution? Are you ready to stand up and fight it just like soldiers? Baby, I called, you had chosen. Oggi vi abbiamo presentato le edizioni degli anni 80, invece chiudiamo appunto con Revolution di Dennis Brown, qui è del 1991. Oh, yeah. loving combination. You give me inspiration. Good vibration, both day and night. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah. Really and truly, you give me good vibe. Whoa, yeah, yes. You give me good vibe all the time. Both day and night. Giving me a good, good vibe. Both day and night. Give me a good goodbye. Love you. So if you wanna live, a live, a live, a live, a live, live forever. Won't we get loose? Love, love, love, love, love, love each other. Whoa, say if you wanna live, a live, a live, a live, a live, live forever. Won't we get loose? Love, love, love, love, love, love each other. E allora noi su Ver Revolution vi salutiamo, vi rimandiamo a tra due giovedì, in quanto giovedì prossimo non andremo in onda. I'd like to ask you all a question here this morning. For those of you who think it's time they got rid of apartheid, let me hear say it. Ma non disperate, perché non vi lasciamo soli, continueremo a caricare musica nei nostri social. Vi ricordiamo che ci trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e ovviamente anche su Spotify, dove trovate una playlist con più di 50 ore di black music e poi ovviamente anche tutti i nostri podcast. Eh sì, sul sito della radio www.ondarossa.info trovate tutti i podcast delle varie trasmissioni con associata un'immagine, la scaletta, una breve descrizione della puntata, insomma tutto quello che vi serve per risentirvi la puntata. Wave your hands in the air, and then the spike is a part time.